estranho alla comunità degli uomini. Qualsiasi pensiero deve essere pazzo. Deve essere pazzo. Deve essere sogno. Sta zitto, sta zitto, sta zitto, sta zitto. Sì, lo so cos'è tutto questo. È uno scherzo della TV, una candid camera. Molto bravi, davvero, ottimo lavoro, mi è piaciuto molto. Ma adesso basta. Là c'è qualcuno. Dove? Io non vedo niente. Non ci pensare più o diventerai pazzo. Riesci a dormire? Sì. Sì. Hai ancora incubi? No. Riesci a dormire? Sì. Hai ancora incubi? No.